L'Espirit Nouveau a Bologna per Art City al 100° anniversario dalla nascita di Ioan Mecas. Siamo con i curatori dell'esposizione e quindi innanzitutto vi do il buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sarà un'intervista in coro, però andiamo una alla volta così. Allora, ho il piacere di parlare con... Siamo entrambi Francesco Urbano Ragazzi, abbiamo un nome comune, siamo un duo e quindi diciamo siamo entrambi Francesco. Ok. Non possiamo sbagliare, come faccio di solito, esatto. Confusione. E l'importanza di questo artista e come viene portato all'interno di Art City. Ioan Mecas è una figura, diciamo, centrale per comprendere qual è l'evoluzione del cinema fino ai giorni nostri. È qualcuno che ha immaginato di portare la vita all'interno del cinema e quindi di filmare e di inventare un genere che si chiama il diary film, quindi il film diario, e quindi di filmare la vita di tutti i giorni. Quest'idea che nasce a partire dagli anni, dall'inizio degli anni 50 e poi prosegue per circa 70 anni di carriera dell'artista, è un'idea, diciamo, radicale di riconnessione con la storia e con il tempo attraverso la macchina da presa. E questo diventa un esercizio spirituale che ha una prospettiva molto particolare, perché è la prospettiva di un profugo lituano, quindi un displaced person che si trova a vivere negli Stati Uniti avendo perso tutto, avendo perso ogni ancora e ogni legame con il proprio territorio, con la propria storia. E quindi, diciamo, l'esercizio filmico, il diario, diventa un modo per riconnettersi con la realtà e trovare all'interno di questa una forma o delle forme di felicità. Entriamo in mostra a questo punto, come viene riportato tutto ciò con la vostra ispirazione? Abbiamo deciso di pensare il padiglione dell'Esprit Nouveau come una macchina cinematografica, come una macchina filmica. Chi entra in mostra vedrà la luce cambiare praticamente ogni minuto. A partire da questa caratteristica dello spazio abbiamo deciso di usare anche lo spazio come una cassa armonica, per cui i diari filmici di Ioan Mecas, prodotti in diverse epoche della sua vita, appunto dalla fine degli anni 50 fino agli ultimissimi anni 10 del XXI secolo, sono disposti all'interno dello spazio creando una sinfonia, per cui appunto gli audio dei video e degli audio diari si mescolano creando una sinfonia. E poi abbiamo utilizzato le vetrate del padiglione ancora una volta come una macchina del cinema, per cui delle immagini tratte dai film di Mecas sono applicate alle vetrate e diventano vive attraversate dalla luce. Quanto tempo ha richiesto questo lavoro immersivo, mi viene da dire così, in maniera molto frettolosa? Noi abbiamo iniziato a lavorare con Jonas da molti anni, insomma dal 2014, per cui insomma è stato un continuo affondo da parte nostra sul suo lavoro e nella sua vita. E oggi che ricorre appunto il centenario dalla sua nascita, stiamo curando una serie anche di eventi. C'è una mostra al Mattatoio di Roma e ci sarà una mostra a Milano alla Cineteca, per cui stiamo cercando davvero di far vedere ad ogni tappa di questo viaggio per l'Italia un aspetto diverso del cinema di Mecas. Quindi continuiamo a sprofondare nel suo lavoro, che è assolutamente infinito. Grazie, benvenuti a Bologna e buona giornata, buona Art City. Grazie, grazie.